GR Sport. Un augurio di buona giornata da Paolo Panceri. In apertura di notiziario ancora la vicenda del doping nel ciclismo. Ieri la procura antidoping del CONI ha interrogato Riccardo Piepoli, compagno di squadra e grande amico di Riccardo Riccò, che due giorni fa ha ammesso di aver fatto uso di EPO. Piepoli però non ha fornito alcun elemento ulteriore all'inchiesta ed ha negato ogni addebito relativo alle indiscrezioni che lo davano come un possibile nuovo dopato alla Gran Boucle. Sentiamo una sua brevissima dichiarazione al termine dell'interrogatorio. Ho interrogato come tale, ho risposto come tale e punto. Né più né meno. A completare il quadro è arrivata anche la notizia della positività all'antidoping, sempre per EPO, di altri due ciclisti professionisti, Paolo Bossoni, subito sospeso dalla sua squadra, la Lampre, e Giovanni Carini, campione italiano dilettanti elite. Passiamo al calcio. Il Milan sarà impegnato da oggi nel torneo delle Ferrovie di Mosca, primo incontro con il Siviglia, mentre domenica i rossoneri affronteranno la vincente fra Lokomotiv Mosca e Chelsea. Carletto Ancelotti si è soffermato sull'infortunio di Marco Borriello al ginocchio destro, ha ribadito che Shevchenko resterà al Chelsea e ha confermato che Alberto Paloschi è stato tolto dal mercato. Borriello ha un problema che risolverà in fretta, quindi dobbiamo aspettare Borriello e Shevchenko si farà la sua stagione al Chelsea. Paloschi resta con noi, è l'unico attaccante che abbiamo a disposizione insieme a Kakà, quindi giocherà queste partite. Oggi a mezzogiorno a Nyon in Svizzera si terrà il sorteggio per il terzo turno dei preliminari di Champions League e UEFA. Interessate Juventus, Fiorentina e Napoli. Ieri i bianconeri sono partiti verso l'Inghilterra per una tournée nell'Emirates Cup che li vedrà affrontare Arsenal e Hamburgo. Nel frattempo l'italo-brasiliano Amauri è diventato la star indiscussa dell'estate bianconera. Benissimo, perché sappiamo alla Juve comunque ci fa solo bene, perché se stanno in forma tutti gli attaccanti è un segno che la Juve sicuramente vincerà più partite possibile. Come dicevamo, Fiorentina è in trepidazione per il sorteggio di Champions. I viola sono teste di serie insieme, fra le altre, a Juventus, Liverpool, Arsenal e quel Barcellona che l'altra sera ha espugnato lo stadio di Firenze per 3-1 nel Memorial Artemio Franchi. Prandelli ha fatto capire che la sconfitta con il Barcellona si rivelerà utile. Non potevamo cambiare la preparazione per una partita, anche se importante, anche se un evento straordinario, anche se hanno partecipato tutti. Non potevamo assolutamente cambiare tipo di preparazione, perché noi vogliamo arrivare ai preliminari preparati. Soddisfatto Gian Paolo Pazzini, autore dell'unico gol contro il Barcellona. Un gol che comunque dà morale, anche se non un amichevole, ma davanti a 40.000 persone, insomma, è difficile chiamarla amichevole. Il Lecce ha continuato ieri l'allenamento al Tarvisio. La squadra attende l'arrivo del nuovo acquisto, Fabio Caserta, dal Palermo. Un elemento in più per l'allenatore Mario Beretta in vista dell'obiettivo salvezza. Una buona organizzazione quando non è la palla e quindi non è in possesso di palla è sicuramente è già un criterio estremamente positivo. Il Siena l'anno scorso è stata la sesta miglior difesa, l'anno prima la settima, e alla fine è riuscita a mantenere la categoria. È ovvio che se si riesce a lavorare bene sotto questo aspetto è già un grosso passo in avanti. Poi naturalmente facendo bene la fase difensiva sicuramente avremo anche più l'opportunità magari di, come dicevo prima, di fare risultati contro squadre importanti. E chiudiamo con l'automobilismo. Primi assaggi per la Ferrari in vista del Gran Premio di Formula 1 di Ungheria a Budapest. L'appuntamento importante in vista del riscatto della squadra di Maranello dopo il rilancio in vetta al mondiale di Lewis Hamilton. Felipe Massa è ottimista, mentre per Raikkonen non è facile capire il calo di prestazione della Ferrari. Da segnalare anche un incidente avvenuto a Michael Schumacher. Secondo il Daily Mirror, l'ex campione del mondo a bordo di un furgone avrebbe investito un uomo nel tentativo di sorpassare due anziane signore su un'auto. Secondo la portavoce di Schumacher, però, l'incidente è stato lieve. È tutto per questa edizione, ancora un augurio di buona giornata da Paolo Panceri.